Capitolo 14. Eltersdorf. Natale 1525. Oggi il pastore Vögel non ha parlato per me, non a fratello Gustav. La sua voce era come un tuono sordo, lontano. Sono solo. Nessuna parola che riesca a convincermi. Non dopo l'olocausto degli inermi, non dopo quel grido caduto nel vuoto. Può tenerselo, il conforto della parola. Sono stato tra quelli che credevano nella sua forza. La sera, nella mia stanza, assalito dal gelo, leggo le lettere e sento che qualcosa di indefinito si fa strada e si avvicina sempre più ogni giorno che passa. Qualcosa che lotta per emergere, ma lo ricaccio giù, in fondo allo stomaco, con tutte le forze, e ogni notte è più difficile. All'illustrissimo Magister Thomas Münzer, pastore predicatore della città di Hallstead. Illustrissimo maestro, lo Spirito di Dio che infonde sapienza e coraggio sia su di voi in queste ore di tormento. Vi scrivo con la fretta e l'agitazione di chi vede il pericolo strisciare in silenzio e saettare rapido alle spalle dell'uomo nel quale ha riposto le sue speranze. Già ho avuto modo di illustrarvi come le mie orecchie avrebbero potuto aiutarvi, data la loro prossimità a certe porte che celano intrighi. Ebbene, non so dire cosa sia più forte in me, se la gioia di potervi essere finalmente utile dopo molti mesi dalla mia prima missiva, oppure l'ansia e lo sdegno per ciò che contro di voi si sta macchinando. Al principe elettore, che finora aveva mantenuto una posizione di attesa, la vostra Lega degli Eletti non è piaciuta affatto. Allo stesso modo, il sermone che avete tenuto al cospetto di suo fratello. Soprattutto, lo afferma il fatto che possiate disporre di una stamperia e che le vostre parole possano raggiungere i focolai di rivolta che pian piano si accendono in tutto il suo territorio e oltre. Non ha intenzione di attaccarvi direttamente. Credo che tema le possibili ripercussioni di un gesto avventato. Vuole però allontanarvi da Hallstead, dal vostro Torchio e dalla sua Sassonia. Un certo Hans Zeiss è stato in visita qui alcuni giorni fa e si è trattenuto a lungo con Messer Spalatino, il consigliere di corte. Vogliono isolarvi. Zeiss fingerà di stare dalla vostra parte, ma, nel frattempo, con le dovute promesse, vi rivolterà contro, se non tutto il consiglio cittadino, almeno il vostro borgomastro. Si è detto sicuro di riuscirvi, e non sembrava una semplice promessa. Dal canto suo, Spalatino vi scriverà una lettera da parte del principe elettore Federico, per invitarvi a Weimar, dove vi sarà data l'opportunità di esporre in maniera estesa e davanti ad alcuni importanti teologi le vostre tesi. Non afferrate la mano che sembrano tendervi. Non pensate di poter fare la parte del leone. Non contate sull'appoggio di Zeiss e compagni. Una volta lontani dai vostri, vi abbandoneranno, giurando e spergiurando, che il vostro arrivo ha causato solo confusione nella loro città, che le vostre teorie sono pericolose, che mancate completamente di quella sottomissione all'autorità che Martin Lutero ha predicato. Voi avete una grande forza, la forza della parola di Dio che incontra il suo popolo attraverso le vostre labbra. Tra quelle mura, lontano dai contadini e dai minatori, la forza vi sarà succhiata via come a un nuovo Sansone. Zeiss sarà la vostra Dalila e stringe già le forbici tra le mani. Lo ripeto, non lasciate Hallstead. È lì che vi temono, per le vostre prediche e il vostro Torchio da stampa. Temono la reazione del popolo a una qualunque azione violenta contro di voi. Non si azzarderanno mai a toccarvi. Non partite per Weimar. Che il Signore Dio vi illumini e vi sostenga. Quelet. Il giorno 27 di luglio dell'anno 1524. Questa lettera fu certamente consegnata al Magister troppo tardi, dopo il suo rientro da Weimar, quando ormai i giochi erano fatti. In quei giorni difficili forse non ebbe nemmeno il tempo per valutarne l'importanza e comunque non ne fece menzione. Certo è che questa missiva rivelava in anticipo ciò che sarebbe successo. Colui che vergava queste righe era davvero vicino alle stanze dei principi. Fu la lucidità di Ottilia a salvarci in quei giorni. Avremmo potuto perderci definitivamente, ma quella donna ci risollevò e ci guidò fuori dalla palude nera di una folle disperazione. Ottilia, non ci sarai adesso a portarmi via da qui. Non so qual è stata la tua fine. Pasto di mercenari o di corvi. Il cuore, arido, mi spinge quasi a sperare che tu non sia sopravvissuta a questo niente, alla fredda solitudine che marca la natività di quest'anno di morte.